Allora, Mario Giambelli, avvocato a Pavia, da 5 anni ti stai occupando di studiare non solo il diritto come sempre fatto, ma di studiare anche l'economia per capire dove ci stiamo trovando oggi. E sono 5 anni che mi hai detto che quasi non fai vacanze per poter aggiornarti e comprendere come stanno la situazione di oggi. Che è sotto gli occhi di tutti, siamo di fronte a quello che Luciano Gandino chiama colpo di Stato di banche e governi, non solo dell'Italia, ma in generale dei paesi occidentali e non solo. In Italia però adesso ci focalizziamo su un punto centrale, che è, fra poco saremo chiamati a decidere sul no o sì al referendum. Un referendum che riguarda ben 47 articoli della Costituzione, quindi qualcosa di enorme. Una trasformazione della Costituzione italiana che, come sostieni tu e sostiene qualunque giurista sensato, non può essere fatta da un Parlamento, ma dovrebbe essere fatta da una nuova Assemblea Costituente, cioè che viene votata dall'intero popolo italiano. Cioè si tratta di dire la Costituzione la abbandoniamo, che ne facciamo un'altra. Invece questo avviene da parte di un governo. Governo che, come sappiamo tutti, è in piedi sulla base della fiducia di un Parlamento che è stato votato sulla base di una legge che addirittura è costituzionale, perché la Corte si è pronunciata su questo tipo di legge elettorale che ha portato al Parlamento. La legge elettorale è incostituzionale perché, molto sinteticamente, attribuisce un potere enorme a coloro che possono definire le liste dei partiti. Praticamente bloccando le liste, l'elettore non è più in grado di scegliere i suoi parlamentare o senatore. Allora, la situazione di oggi è particolarmente seria, ma non è certo la prima. Come dici tu, sono semplicemente i chiodi che vengono poggiati sulla cassa prima della Costituzione, prima di seppellirla definitivamente. Adesso, siccome tu sei uno studioso serio e quindi è bene prendere occasione dal fatto che tu ci puoi illustrare dettagliatamente i fatti che stanno dietro questo referendum e come effettivamente questo referendum funziona, io ti passerei la parola e magari ogni tanto mi metto dal punto di vista degli ascoltatori quando è troppo difficile o troppo complesso, magari ti fermo un attimo e ti faccio altre domande. Va bene? Ecco, la prima domanda però che ti vorrei fare è questa: che cosa ti ha spinto in questi 5 anni a lavorare così duramente? Allora, mi ha spinto così, un senso di perplessità che mi ha colto dopo il 2006, dopo le cosiddette riforme di Bersani, che in parte riguardavano anche la mia professione. Con quei provvedimenti si autorizzava la massima pubblicità nel campo delle libere professioni, cosa che fino allora era stata vietata. Completamente vietata e giustamente perché i professionisti devono farsi pubblicità con la qualità del loro lavoro, non comprando la pagina di un giornale. E si abrogavano i minimi e i massimi tariffari, mettendo praticamente gli avvocati, per quello che riguardava la mia professione, nelle mani delle grosse società di capitali che il giorno dopo quei provvedimenti praticamente imponevano con la forza delle loro dimensioni, imponevano le loro tariffe e ovviamente erano tariffe ultra scontate. E si metteva invece la povera gente, il cittadino comune, nelle mani degli avvocati senza scrupoli, perché in quel caso, nell'ambito di quel rapporto, l'avvocato era la parte forte del rapporto contrattuale. E questo mi suonava talmente strano, talmente insensato, e la domanda che mi sono fatto in quel momento è perché? Come mai? Ma non si rendono conto questi di che danno stanno provocando? Questo ha fatto sì che cominciassi a riprendere in mano i miei studi, gli studi di diritto costituzionale, gli studi in genere, insomma, ho avuto una discussione proprio in quel periodo con un giornalista del Sole 24 Ore che io avevo fatto un intervento in un suo blog proprio per contestare questi provvedimenti, lui aveva preso una posizione, insomma avevamo avuto una polemica molto forte, da lì avevo sviluppato alcuni concetti. Poi a poco, studio dopo studio, giorno dopo giorno, mi sono reso conto che la società che si stava sviluppando in quegli anni non era la società che era così, la società ideale, la società prevista dalla nostra Costituzione, quella che i padri costituenti avevano ipotizzato dovesse essere la nuova società del futuro, la nuova Italia del domani. E da studio nasce studio, interesse, sempre più approfondimento, sempre più ricerca. Ho vagato per alcuni blog perché l'approfondimento non è semplice, a volte porta anche fuori strada. Poi sono arrivato al sito di Alberto Bagnai, ho capito molte cose, ho ripreso in mano anche alcuni studi di economia che avevo fatto durante gli anni universitari. Da lì poi il passo è stato breve e sono riuscito appunto a collegare i puntini. E collegando i puntini mi sono ho approfondito anche la questione dei trattati europei, la lettura dei quali mi ha subito convinto del fatto che il sistema sociale, il sistema sociale previsto dalla Costituzione e quello invece disciplinato dai trattati europei sono due sistemi antitetici, incompatibili. Uno è il modello, quello dei trattati, il modello cosiddetto neoliberista, ma si può dire benissimo liberale liberista perché riprende, cioè è un ritorno al passato sostanzialmente, al passato della fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale, e invece il modello sociale previsto dalla nostra Costituzione è la cosiddetta democrazia sociale, che è totalmente all'opposto del sistema liberista e quindi con esso incompatibile. Okay.